известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Lynn and her producer, Una Lee, have been sentenced to 12 years of hard labor. What you are seeing right there is my 12 anni di lavori forzati, questa è la sentenza per la giornalista americana coreana Una Lee e per la cinese americana Laura Ling, dopo che sono state colte, sorprese per conto della televisione californiana Current TV, che vediamo anche sui nostri canali satellitari, a essere, o almeno sono accusate di essere penetrate illegalmente in Corea del Nord dalla Cina mentre stavano realizzando un servizio sui profughi nordcoreani. La famiglia naturalmente ha reagito con grande preoccupazione. Siamo preoccupati per quello che riguarda la loro salute mentale e il loro benessere. Speriamo che i governi di Stati Uniti e Corea del Nord arrivino a un accordo che porti alla loro liberazione. Si sono annunciate nelle ultime ore delle iniziative concrete da parte della Casa Bianca di Barack Obama. Pare che addirittura Al Gore verrà utilizzato con tutto il prestigio che trascina con sé per negoziare il rilascio delle due giornaliste. Un altro personaggio che è in prima linea su questa questione è Bill Richardson, ex candidato alle primarie democratiche, lo ricorderete, quel tipo corpulento con la barba e i modi piuttosto simpatici, governatore del New Mexico, ma soprattutto grande esperto di politica internazionale, soprattutto nelle relazioni con il lontano Oriente. Sembra un po' un pezzetto di Charlie's Angels, non so come dire, e però c'è anche poi un dato concreto che con la Corea del Nord il governo americano di questi tempi non può scherzare troppo, non può farlo uscendone completamente indenne. Abbiamo chiamato a questo punto una persona che ne sa più di noi, ovvero Luca Vinciguerra, il corrispondente del Sole 24 Ore da Shanghai, che ha grande esperienza della Corea, ne conosce gli scenari e anche gli atteggiamenti sui fronti internazionali. Prima di tutto salutiamo Luca, buonasera Luca. Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ecco Luca, quello che ti vorrei chiedere essenzialmente, di fronte a questa vicenda della quale insomma è abbastanza forse ottimistico, ma naturale presupporre alla fine una situazione, una soluzione di compromesso, ma a tuo parere che cosa cerca la Corea da uno scenario di questo genere? Vuole una esposizione? Vuole presentare qualche conto da saldare? Qual è la tua opinione su questa rudezza, no? Su questo atteggiamento grave, esigente da parte dei coreani? Parliamo nello specifico dell'arresto delle due giornaliste, certo, della certo, condanna certo, ai 12 anni. Certo. Sì, diciamo che è un tassello di una strategia più ampia. Secondo me cioè questo arresto è stato diciamo un fatto provvidenziale per il regime nordcoreano, perché alla fine si è trovato alla sua arco una nuova freccia per ricattare gli Stati Uniti e diciamo tutto l'Occidente, perché è questo che di fatto sta facendo la Corea del Nord, questa diciamo politica di tira e molla, no? Se noi guardiamo negli ultimi 7 anni cosa è successo, la Corea del Nord ha continuato a brandire l'arma del nucleare, talvolta, adesso l'ultima volta addirittura facendo anche un esperimento vero e proprio. Perché cosa? Perché è un paese affamato, un paese allo stremo delle forze, che non ha più medicinali, non ha energia, tutte le risorse che arrivano nel paese, che ormai vengono quasi tutte dalla Cina, finiscono in mano al governo, ai funzionari pubblici, all'esercito, che è quello che deve mantenere in piedi il regime. E quindi in questa situazione l'unico modo, l'unica via di uscita che ha è ricattare gli Stati Uniti, ricattare il mondo occidentale per sedersi al tavolo di un futuro negoziato e esigere appunto tutto quello di cui ha bisogno. Quindi diciamo questo è un, alla fine se pensiamo rispetto a un esperimento nucleare, adesso non per essere cinici, certo, all'arresto certo di due giornaliste, cioè è ben poca cosa, però anche questo fa parte così di una strategia che tende a ricattare, tende appunto a usare il ricatto come arma per ottenere tutto ciò che oggi la Corea del Nord non ha e che la Cina a questo punto non le darà più con la generosità con cui gliel'ho dato in passato, insomma. Chiarissimo questo, ma tu so tra l'altro che conosci anche con per esperienza personale e professionale questa zona di confine tra Cina e Corea del Nord e questa situazione dei profughi nordcoreani su cui le due giornaliste cinoamericane stavano lavorando. Puoi dircene qualcosa di più? Sì, io in un paio di punti ho viaggiato anch'io, perché il confine della Nord Corea con la Cina è un confine molto ampio, sono quasi 1000 chilometri, sono due grosse province cinesi che confinano con la penisola coreana. E io ricordo, sono andato un paio di volte appunto e ho raccolto testimonianze di cinesi che avevano visto, qualcuno addirittura aveva dato anche ostello, ospitalità in passato dei profughi nordcoreani, addirittura mi raccontavano delle storie di profughi nordcoreani che venivano di qua dal confine, magari venivano a mangiare e poi tornavano di là, quindi è un confine in effetti blindato, ma per certi aspetti anche labile, proprio perché tante volte ci sono dei piccoli corsi d'acqua dove ci si può infiltrare, insomma. Ecco, ricordo che la storia più cruda che avevo sentito da questi contadini cinesi che raccontare era che quando la polizia nordcoreana catturava i fuggitivi, e spesso era a sua volta era la polizia cinese che glieli metteva su un piatto d'argento, addirittura li legava uno per uno con un anello che gli veniva conficcato dentro la clavicola per poi praticamente agganciarli tutti con un fil di ferro. Accidenti. Quindi una crudeltà veramente bestiale, insomma, ecco, quindi Luca, a tuo parere posso anche capire appunto come siano finite nella trappola, perché ripeto, il confine è labile, poi ti sono spinti là, perché per loro stanno raccontando una storia molto interessante, certo, che sempre riguardo i fuggitivi, di queste donne che vengono di qua poi vengono vendute come schiave, certo, come mogli, come cameriere, come tutto, insomma, come prostitute. E quindi chiaramente si trattava anche di una storia scomoda. Sulla base della tua esperienza, come può finire? Ma sicuramente, e glielo auguro anche, non staranno in galera 12 anni. Penso che appunto verranno messe sul piatto del negoziato e alla fine, anche se torneranno a casa. Il problema è che è un negoziato oggi che farà fatica a partire, che farà fatica a svilupparsi. Non a caso gli americani stanno mettendo in campo le grossi calcoli. Sì, la squadra migliore possibile, certo. Sì, però ciò nonostante la base di partenza è veramente critica. Certo. Bisognerebbe anche cercare di coinvolgere la Cina, più che i nomi che hai fatto tu, che tutto sommato al regime nordcoreano dicono poco. Certo. Bisognerebbe mettere di mezzo anche la Cina, e probabilmente saranno questi personaggi a loro volta a usare la sponda cinese, certo, per cercare di convincere Pyongyang almeno a rilasciare queste due ragazze. Insomma. È appena uscita un'agenzia 10 minuti fa, Luca, te la sottopongo magari per un ultimo commento prima di chiudere, è ripresa da una uscita del Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori della Corea, e sostiene che la Corea del Nord mette in guardia gli Stati Uniti dal proposito di estendere l'ombrello nucleare su Corea del Sud e Giappone, estensione che per i nordcoreani equivarrebbe a una dichiarazione di guerra nucleare. È una specie di escalation quella che sta andando in scena invece in questa questione, che è sicuramente più spinosa, come dicevi, di quella delle giornaliste. Questo è un passo sicuro, ma è il motivo per cui, tra i tanti motivi per cui la Cina deve in qualche modo intervenire in questa crisi nordcoreana, uno è proprio questo, che se la Nord Corea continuerà su questa strada, è normale, il Giappone e anche Taiwan e la Corea del Sud, cioè ben tre paesi, chiederanno l'aiuto degli Stati Uniti per creare un ombrello antinucleare, certo, o comunque avranno il pretesto per rafforzare i propri armamenti. Il Giappone, che da 60 anni ha un esercito che ha un profilo molto assolutamente non aggressivo, per diventare più aggressivo. Quindi la Cina ha interesse anche per questo, se no i suoi vicini, che ricordiamolo, sono comunque potenzialmente dei nemici sotto il profilo geopolitico e geostrategico, avranno una buona scusa per riarmarsi e per rafforzare i loro armamenti con la spalla degli Stati Uniti. Quindi anche qui la Cina giocherà un ruolo fondamentale. Quindi gli unici che possono cercare di riportare a più miti consigli i nordcoreani sono i cinesi. Questo è poco ma sicuro, e a questo punto di ragioni ne hanno diverse. Ecco, nel frattempo è uscita un'altra agenzia delle 16, quindi degli ultimissimi minuti, secondo la quale un accordo è stato raggiunto su un progetto di risoluzione per la Corea del Nord e oggi verrà discusso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, lo rende noto la rappresentanza russa alle Nazioni Unite, quindi ci sarà qualcosa di tangibile da fronteggiare per i coreani in sostanza? Beh sì, più sanzioni per quel poco, certo, che gli arrivava, certo, dagli occidentali, certo, e sicuramente qualcosa di più anche da parte dei cinesi, certo. Non... I cinesi non possono a questo punto continuare a dire di no al discorso delle sanzioni economiche. Il tuo punto è che la chiave in questo scenario è la Cina, insomma, non ci sono dubbi. Assolutamente, non c'è nessun altro, non ci sono i russi, non ci sono americani, non ci sono cinesi, certo. Non ci sono americani, non ci sono sudcoreani, non ci sono giapponesi che possono fare alcunché. Gli unici sono i cinesi, perché i cinesi oggi la Nord Corea è legata a doppio filo alle forniture cinesi, di tutto ciò che si mangia in Nord Corea, che si brucia in Nord Corea, con cui ci si cura in Nord Corea, è made in China oggi, perché appunto è Pechino che fornisce tutto. Tu mi direi, perché allora la Cina sta continuando a fare questo, se ha tutto questo interesse? Perché alla fine la Cina deve stare attento a non fare crollare questo regime, certo. Il regime di Kim Jong-il, che adesso in qualche modo formalmente è stato girato al figlio, perché nel momento in cui quel regime dovesse crollare, quelle frontiere dove sono state arrestate le due giornaliste americane verrebbero travolte da un'ondata di profughi, c'è chi dice 500.000, c'è chi dice 1 milione, nordcoreani affamati, disperati, che si... Un grosso problema in più, certo. In zone poverissime, si dovrebbe fare un'emergenza sanitaria che a quel punto solo i cinesi dovrebbero fronteggiare, quindi è una partita molto molto complessa, e questo è proprio perché la partita è così complessa che un paese come la Nord Corea, come ho descritto finora, poverissimo e allo stremo delle forze, riesce ad avere tutto sommato una leva negoziale così, così lunga. Bene, speriamo che le giornaliste americane non restino stritolate da questa complessa situazione internazionale. Ringraziamo Luca Vinci Guerra, che vi ricordo è il corrispondente del Sole 24 Ore da Shanghai. Down among the wines and spirits, where a man gets what he merits. Once it was written in letters of 9 feet tall, and now he finds out four is 40 since he set his mind on her completely. Oh, well, I guess that you mustn't have seen him lately, walking around with a pain that never ceases. He starts to speak and then it falls to pieces. Down among the wines and spirits, where a man gets what he merits, lives with the echoing words of a final quarrel. The vacant chamber and the empty barrel. But as he picks himself up from a soda's floor, clicks his fingers to that swinging door, suddenly he's calling out. Questa è la nuova ennesima svolta di Elvis Costello verso il country. Lui di tanto in tanto, è la terza volta che registra un disco completamente a Nashville con specialisti del country, e così un certo effettaccio ce lo fa, come ci fanno un effettone queste notizie che arrivano dagli Stati Uniti, in cui si parla di Marchionne in prima pagina con numeri ormai da vero Superman, no? da Fantastici 5 a questo punto. C'è un quinto fantastico, nuovo amministratore delegato della Chrysler, stanno uscendo ormai le composizioni, l'organigramma di questo nuovo marchio destinato a segnare, ma in un certo senso anche a simboleggiare, una ripartenza. Naturalmente tutti gli auspici sono positivi, ben auguranti, l'alleanza è stata perfezionata, diventerà operativa subito. C'è una breaking news di CNN che dice che Chrysler e Fiat hanno finalizzato l'accordo per creare la nuova Chrysler, che comincerà a operare immediatamente. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. E allora, da una notizia che, caro Stefano, qualche anno fa sarebbe stata incredibile, cioè pensare, certo, alla Fiat, certo, che va a scalare il colosso Chrysler, ad un'altra che in Cina sarebbe stata davvero impensabile fino a pochi anni fa, e cioè è stato inaugurato a Shanghai la prima settimana dell'orgoglio omosessuale, cioè del Gay Pride. Bellissimo, in salsa cinese. Ricordiamo che insomma in Cina tutt'oggi gli omosessuali non hanno vita facilissima, perché no, fino a poco tempo fa era considerata una malattia e soprattutto insomma l'omosessualità era un reato. Adesso naturalmente le cose stanno un po' migliorando, anche se si tratta di un Gay Pride pur sempre con prudenza molto cinese, in un giardinetto molto pacati, insomma, perché per esempio gli organizzatori hanno rinunciato in partenza per evitare guai ad una sfilata pubblica, certo, perché sapevano insomma che avrebbero avuto bisogno di un'autorizzazione che difficilmente fanno da casa, come fanno? Il governo non avrebbe concesso. Sono previsti solo appuntamenti privati, cioè in club, in pub, posti chiusi. Ci saranno mostre, conferenze, ma insomma tutto in maniera molto, molto tranquilla. Oggi ho sentito anche Saro Capozzoli per sapere com'è l'area a Shanghai, ha detto guarda che non è che girano improvvisamente poco pride, omosessuali insomma, molto visibili per Shanghai, insomma il clima rimane molto, molto tranquillo. Per esempio pensate che soltanto nel 2005, quindi praticamente 4 anni fa, la polizia aveva impedito con la forza la celebrazione di un festival dedicato all'omosessualità a Pechino, quindi insomma bisogna restare sempre prudenti. Il China Daily si è avventurato anche in una stima di omosessuali in Cina, ne calcola insomma in 30 milioni su 1.3 miliardi, insomma non sembrano tantissimi, forse sono solo quelli dichiarati, poi chissà quanti questo non sono, è un vecchio, vecchio giochetto. Lo dico, non lo dico, vabbè. Dunque, ci scrive una mail sul sito Facebook molto arrabbiata Anna, che dice che le persone sinistra hanno fatto un caso politico perché Berlusconi avrebbe ospitato sull'aereo di Stato persone per portarle in Sardegna senza aggravio di costi per lo Stato. E dice: non vi chiedete quanto costerà il viaggio di ritorno da Parigi negli Stati Uniti della moglie e figli, scorta e lo staff del Presidente degli Stati Uniti? Si noti che il viaggio è un bel po' più lungo, le persone saranno un po' più numerose. Vediamo se avete l'onestà di dirlo, ma noi figuriamoci, siamo qui a dire. Non ci costa nulla di particolare, poi non è che non siamo mica un ufficio stampa, cerchiamo di valutare e di raccontare, di descrivere le cose per quelle che ci sembra che siano. Poi. Per cui rispondiamo che quanto costa il viaggio di Michelle Obama verso casa non lo sappiamo, però possiamo dirvi quanto è costata la visita di 17 ore di Barack Obama in Sassonia venerdì scorso al governo del Land, quindi quanto è costata ai tedeschi, quanto gli è venuta il conticino finale: 13 milioni di euro in 17 ore, la media di 770 mila euro l'ora, spesi tutte in sicurezza. Forse neanche Ibrahimovic guadagna così tanto in un'ora. Non so. No, in un'ora 770.000 sono tante, ma soprattutto in sicurezza 770.000 sono tantissimi. Cosa ha fatto in Sassonia Obama? Cosa ha fatto? No, in Sassonia è andato che era il viaggio poi di venerdì, quindi stava andando da Buchenwald da Buchenwald verso la Francia a celebrare il D-Day in Normandia. Certo. Non ha pagato lui, ma i costi ci sono sempre a carico della comunità europea. Però. Quindi questi costi non rientrano nelle spese militari di cui parlavamo ieri, perché non c'entra nulla con i budget faraonici. Temo che questi costi dove guardi male. Ecco. Allora, parliamo invece di Yao Ming, insomma, star indiscussa del basket mondiale. Stefano, le notizie recenti di Yao non è reduce da una stagione straordinaria. Beh, no, ha chiuso la stagione infortunato, dovrebbe rientrare a inizio. La stella degli Houston Rockets, capitano della nazionale cinese, che non ha brillato a sua volta alle Olimpiadi di Pechino come invece si sperava, per i cinesi almeno, si è dato al doppiaggio, perché ha dato la voce al padre dell'eroina di un cartone animato che avrà sicuramente un grande successo in Cina, anche perché ha coinvolto molte star locali. Si chiama The Magic Aster e rientra in un contesto ampissimo per le celebrazioni dei 60 anni della Repubblica Cinese, che poi verranno celebrate in pompa magna ad ottobre. C'è una brevissima dichiarazione di Yao Ming che ha detto: è più facile giocare a basket che doppiare un cartone animato, anche se poi Yao ha avuto varie esperienze televisive, di film, insomma è stato protagonista anche di un documentario, quindi non è nuovo a cimentarsi davanti alla macchina da presa. Va bene, sentiamo tra poco, tra parentesi, scusate la voce, chiamatela aria condizionata e i suoi effetti. Well, you know your time has come, and you're sorry for what you've done. You should have never been playing with a gun in those complicated shadows. Well, there's a line that you must toe, and it'll soon be time to go. But it's darker than you know in those complicated shadows. All you gangsters and rude clowns who were shooting up the town, when you should have found someone to put the blame. still see that cold graveyard. There's a solitary stone that's got your name on. You don't have to take it from me, but I know of what I speak. You think you're like iron steel, but iron steel will bend and break in those complicated shadows. Take it all in. All those phantoms and those shades should jump up on Judgment Day and say to the Almighty, I'm still thinking of sin. However distasteful many people find their politics, the British National Party do have two elected representatives in Europe. Partiamo un po' dalla fine di questa storia, ovvero dall'ultimo episodio che è stato reso noto, delle uova lanciate addosso a Nick Griffin. Chi è Nick Griffin? Nick Griffin è in Gran Bretagna, nel Regno Unito, uno scenario del quale ci occupiamo raramente, chissà perché, ci sembra forse troppo assonante con invece gli scenari diversi del nostro programma, ma adesso lì stanno capitando delle cose diverse, quindi siamo andati a vedere e a cercare di capire. Allora, Nick Griffin è il capo del BNP, il British National Party. Fino a pochi anni fa, pochissimi anni fa, era una sigla che evocava paura e rabbia al tempo stesso, o dall'altra parte della Manica c'erano potenti mobilitazioni antirazziste ogni volta che il BNP veniva fuori con qualche presa di posizione. Adesso invece succede qualcosa di assai diverso, ovvero che il British National Party, dopo aver vinto una rappresentanza al Parlamento europeo, starebbe addirittura cercando alleanze in Europa per formare un gruppo indipendente a Strasburgo, poi con sullo sfondo le elezioni invece nazionali inglesi, per vedere magari di entrare con una rappresentanza consistente anche nel Parlamento. Gli tirano ancora le uova, ripeto, un tempo c'erano fior di scazzottate al riguardo, però questo partito guidato da un personaggio come Griffin, che dice la gente è stufa degli islamici, punto e a capo, insomma, ha acquistato una sua credibilità e una sua dignità all'interno del panorama politico inglese. Noi abbiamo chiamato un amico del nostro programma, Fabio Cavalera, che è il corrispondente da Londra del Corriere della Sera, che tra l'altro ha intervistato, ha avvicinato Griffin, lo ha conosciuto di persona, qualcosa ci potrà dire al riguardo, per capire come, in mezzo a tanti cambiamenti, no, tutto ciò che circonda le cadute, le numerose cadute e le rare ascese di Gordon Brown, tutti i giorni sulle pagine anche i nostri giornali, ma questa notizia un po' laterale invece ha una sua caratteristica, una sua caratura particolare, la vogliamo commentare con Cavalera. Buon pomeriggio Fabio. Buon pomeriggio a voi e grazie. Allora, come dicevo in apertura, per chiunque abbia frequentato la scena politica inglese per un po', in altri anni, quando si sentiva parlare BNP, partiva la manifestazione spontanea, non so come dire, era veramente circoscritta, no, dallo spirito democratico inglese in modo molto netto. Adesso qui siamo invece in uno scenario diverso. Ma sì, assolutamente. Questo è un partito che raccoglie diverse spinte, diverse anime, diversi sentimenti. Certamente ha un'anima originaria fortemente xenofoba, però devo anche dire che in queste elezioni ha raccolto consensi nell'elettorato tradizionale, sia dei laburisti sia dei conservatori. Si sta in un certo senso un po' imborghesendo, vogliamo dire così, o come ha fatto qualcuno, addirittura ha chiamato in causa dei possibili paragoni che credo faranno molto arrabbiare i sostenitori della Lega in Italia, ma per l'appunto con l'esperienza e i successi della Lega dalle nostre parti. Ma guarda, devo dire una cosa, io ho seguito per alcuni anni la Lega prima di di andare per il Corriere della Sera all'estero. Sono andato l'altro giorno a fare l'ultimo giorno di campagna elettorale assieme a Nick Griffin nel nord-ovest e l'ho visto all'opera sul campo. Innanzitutto la campagna elettorale che ha fatto è stata una campagna elettorale, l'ho visto con i miei occhi porta a porta, cioè lui andava a bussare proprio alle porte degli elettori del suo collegio, si presentava, parlava, si faceva vedere, dando l'immagine di un signore in doppio petto, non estremista, ma comunque ben determinato su alcuni slogan e soprattutto sulla politica contro gli immigrati clandestini e sulla criminalità. In questo mi è sembrato di rivedere qualcosa dell'inizio della Lega, devo essere sincero, nel modo di fare, nel modo di raccogliere i consensi, mi è sembrato di ritrovare una metodologia molto simile e soprattutto mi è sembrato di trovare un terreno di coltura molto simile, cioè il bacino elettorale al quale Nick Griffin va a pescare è un bacino elettorale di malcontento, di arrabbiatura, di delusione, e tutto sommato è il bacino dal quale la Lega all'inizio aveva pescato. E tra l'altro sottoponiamo ai nostri ascoltatori questo paragone, cosa ne pensano? Potete mandarci un sms al 349-238-6666, ho la sensazione che ne sentiremo delle belle, ma insomma qui c'è un personaggio che ha avuto contatti col Ku Klux Klan, voglio dire, dei precedenti abbastanza compromettenti. Tra l'altro tu l'hai avvicinato di persona, con chi ti sei trovato a confrontarti? Guarda, io sono stato proprio al suo fianco tutto un pomeriggio, giravo anche sulla sua macchina, con la sua scorta, ho parlato tutto un pomeriggio con lui. Devo dire che ho trovato un personaggio piuttosto inquietante per certi versi, perché è un personaggio che adesso professa moderazione, che è consapevole che certi linguaggi sono assai pericolosi, ma che è determinato nel portare avanti le sue politiche fortemente connotate da slogan contro gli immigrati, da politiche che per certi versi sono estranee alla tradizione inglese. Che dici Fabio, anche connettendoci con la generale crisi economica, la questione dell'immigrazione, tanto più con dietro una miccia come quella che stiamo descrivendo, potrebbe diventare uno se non il grande tema elettorale della Gran Bretagna dei prossimi mesi? Lo sarà di sicuro, cioè ci saranno tre grandi temi: il tema della crisi della crisi economica e del lavoro si porta dietro anche il tema della immigrazione e si porta dietro anche il tema della criminalità. Il sentimento diffuso degli elettori britannici non prescinde da quello che è avvenuto un po' di tempo fa con gli attentati alla metropolitana di Londra, l'autobus di Londra. Sul bus di Londra, e quindi c'è, come dire, un modo di pensare diffuso, bisogna prenderne atto, che nonostante le politiche di integrazione che ci sono e funzionano tutto sommato, c'è comunque una parte di elettorato britannico che ha paura, è stanco e ha paura di perdere il lavoro a favore degli immigrati clandestini e non solo clandestini, è un elettorato che ha paura dei fenomeni criminali che stanno aumentando un po' in tutto il Regno Unito, insomma sono temi che sicuramente anche il tema della immigrazione sarà un tema forte delle prossime elezioni. Bene, quindi dovremo tener conto anche di questa personalità emergente, Nick Griffin, quello che Fabio Cavalera ha chiamato l'uomo forte che corre verso Strasburgo in un suo recente articolo sul Corriere della Sera. Salutandoti, so che sei, come dire, incastrato in un formidabile sciopero dei trasporti londinesi, quelli che quando una volta ogni tanto vanno in scena sono veramente capaci di paralizzare la città, vero? È assolutamente sì. Devo dire che poi dentro a questa notizia c'è il fatto che a paralizzare la città è un signore, il capo del sindacato dei trasporti inglesi, che è un personaggio del tutto particolare, un fervente leninista, e trovare un leninista a Londra oggi è certo, francamente veramente difficile. Però oggi un leninista ha messo in ginocchio la città. Va bene, ti ringraziamo molto del tuo contributo, Fabio Cavalera, corrispondente del Corriere della Sera da Londra. There's a difference in the way that you kiss me. There's a sadness in your eyes that you can't hide. Why do you tremble when I hold you? I wonder if you feel the same. I felt the chill before the winter came, but it's easy to say that I won't give in again. I was just tempted for a moment and then some. But it's so easy when you love to lose control. Now look here if you will at the faithful man you stole. I felt the chill before the winter came, suffered the guilt, and then accepted the blame. I wanted you before you ever spoke my name. But I knew that we would go wrong, just as they do all of those tragic songs. But did that melody haunt your mind just like a linger of perfume that in someone else's arms locked up in another room? Is there a difference in the way still sadness in your eyes you can't deny? Do you tremble and sigh when it holds you just like I do? What were you thinking of to throw away our love? And it's easy to say that you won't give in again. You were just tempted for a moment and a half. But it's so hard when you desire to lose control. I don't know what this feeling is, but it sure seems cold. I felt the chill before the winter came, suffered the pain, and then accepted the shame. E allora ci siamo documentati un po' su questo sciopero, no? Guidato, voluto dal leninista di cui ci ha parlato Fabio Cavalera da Londra, uno sciopero di 48 ore dei trasporti che è iniziato questa mattina alle 7 ora locale nella metropoli inglese. Secondo quanto riferisce il sito internet della società Transport for London, 5 linee su 11 della metropolitana sono completamente chiuse. Chiunque conosce Londra capisce immediatamente lo scenario, panico vi posso garantire. Pare che milioni di londinesi si siano dovuti recare al lavoro convergendo, no, verso il centro, in quella impressionante massa di manovra che ogni giorno va in scena a Londra, quando tutta la periferia e suburbi e exurbia si rivolgono verso il centro. Sono dovuti andare a lavorare a piedi, in bici e soprattutto pare anche in pattini a rotelle, cosa che ci sembra così piuttosto stravagante. Immaginiamo inglesi in pattini a rotelle, già che ci siamo mettiamogli anche la bombetta, la pipa, così facciamo un po' Alberto Sordi, dai. E infine, mentre agenzie e televisioni sono centrate sulla questione Chrysler Fiat, che ne diventerà un focus anche per noi nei prossimi giorni, c'è riguardo alla Casa Bianca c'è un avviamento ufficiale del progetto di legge riforma dell'assicurazione sanitaria, la grossa prossima issue, questione, centro interesse, focus, chiamate come volete, della Casa Bianca di Barack Obama, la grande promessa della campagna elettorale del neo presidente. È stato presentato ieri il progetto di legge, lo scopo è fornire una copertura sanitaria a 46 milioni di americani che ne sono sprovvisti. Il progetto di legge è stato sottoposto al Senato, sono 615 pagine, bisognerà dar loro il tempo di leggerle. Si chiama Legge su scelte di sanità abbordabili, secondo quanto appreso dalla Commissione Sanità della Camera Alta. L'obiettivo è mettere a disposizione di tutti gli americani una protezione sanitaria di qualità e appunto abbordabile. La parola chiave è abbordabile. Ridurre i costi, migliorare la qualità, prevenire le malattie, rafforzare gli effettivi nel settore della sanità. Fallì su tutto ciò la coppia Bill e Hillary Clinton, soprattutto Hillary, che aveva lavorato ferventemente sulla questione, non riuscì ad andare in porto. Vediamo se ci riuscirà Barack Obama. E ancora da Londra, due giorni da perfette turiste per le donne di casa Obama. Michelle, Sasha e Malia, il trio indistruttibile, avrebbero concluso ieri sera la loro visita turistica a Londra con un musical nel West End. Noi ci auguriamo per tutte loro che non abbiano preso la metropolitana. Mi dicono che sono andate via prima del finale per non restare così ingolfate nella coda, così non sapranno mai come finisce il musical, glielo racconteranno per telefono. Questo è Jefferson 2, l'arte da svolta. Io sono sfiatatissimo, Stefano Vistolini, in redazione Milano Enrico, regia Valerio Occhetti a Roma, Pietro Lacorte a Milano, la mail è jefferson2@radio24.it, su Facebook redazione Jefferson 2 o Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. A mezzanotte la replica, la diretta dopo le 4 domani qui su Radio 24. Ci sentiamo.